Dove era? No, Betta, dove eravamo rimasti, volevo dire, citando qualcuno. Ma io non la volevo fare sta cosa, raga. È la mia prima volta. Stiamo iniziando benissimo. Sigla! E niente, un inizio fatato questo di Radio Forte. appunto. Non faccio in tempo neanche a dirlo che si manifesta già ciò che noi sappiamo. Il disagio che si prova al di qua del microfono, che al di là magari non è percepito, anzi sembra che ci stiamo a divertire. E invece niente, inizio scoppiettante. Scommetto che in tutta questa confusione non avete neanche colto la citazione, ovviamente voi troppo giovani o troppo vecchi, o sono io troppo scemo da citare quel conduttore che dopo che dopo tanto tempo rientrato a Portobello disse: dove eravamo rimasti, ve lo ricordate? Incredibile, incredibile, era perché qui abbiamo uno spessore che voi stessi non cogliete, non volete ammettere che siamo spessi. Quindi vabbè, con spessore saluto Betta alla mia destra. Buonasera. Quest'oggi in console, non so se ve ne siete accorti. Sì, grande Betta. Che grande. Brutto. Ragazzi, io l'avevo detto che volevo fare l'usciere, ma mi hanno fatto fonico. Quindi. Tu sei la nostra tecnologica numero uno e quindi è stata colpa mia. Ma alla mia sinistra, Virginia. Ma ciao. Grande ritorno, mentre sempre più a sinistra. Cioè. Sempre più a sinistra. Gabri Grubi, faziosa, buonasera, faziosa. Buonasera giornalista a tutti, faziosa. A tutti. A seguire la cultura va di pari passo con lei, la professoressa Viola. Ma buonasera a tutti ragazzi, che piacere di avervi qui, riaverci qui. Ricordiamo che non è l'infettivologa famosa, resa famosa dal Covid. La dottoressa Viola. Si tratta di un'altra professoressa. E Dulcis in fundo, ultimo ma non meno importante, Franci. Buonasera a tutti. Incredibile, the beautiful mind of Cento Celle Avengers, mi permetto di dire qui così in diretta. Poco mind e poco beautiful. Già, è proprio così. La nostra mente matematica per eccellenza. Che voce, diciamo, meravigliosa. Diciamo. Posso dire che c'ha la stessa voce di Ligabue? Peccato che non avere. Puoi dirlo, puoi dirlo. Non so se Virginia è d'accordo, però. Puoi dirlo. Se avessimo avuto, vabbè, scusate, lo stacchetto. Faccelo capito? Live. Esatto. Ti ringrazio per aver subito evidenziato senza volere uno dei tanti difetti che abbiamo oggi. Perché laviamo i panni sporchi in perché pubblico. Appunto la nostra arma anzitutto è lavare i panni sporchi in pubblico. È proprio cioè, quello che ci ha reso quelli che siamo celebri. Su questo la musica sale. Siamo veri. Niente, ricominciare dopo tanto tempo implicherebbe per dei veri professionisti delle prove. Cazzo delle prove. E invece niente, tutto all'ultimo. No. Non vi dico Gabri Grubi a che ora è entrata in studio. Tutta, capito? Ah, dov'è la mia scaletta? Dov'è la mia scaletta? E niente, cioè, quindi oggi il cane ci ha mangiato il computino del computer. La regia è un po' fatiscente. Ci sono delle cose, delle differenze che noi ci stiamo cercando anche un po' di rivendere come se l'avessimo fatta apposta. Mo' a cambiare la musica e a mettere questa. La riconoscete? Il tema? La riconosciamo? No. Io non lo so. Ho preso la prima che ho scaricato da Spotify perché stavamo in emergenza, appunto, e ho messo questa. E la sua playlist è una coincidenza. Ingerisce. È una coincidenza. Vabbè, ha ingannato persino noi. Cioè, va bene. Va bene, ma per continuare a ingannarci, vogliamo prenderci una pausa musicale che fa iniziare questa puntata al fulmicotonio, che tra l'altro è. Quarantesima puntata di Cento Celle Avengers, 5 novembre 2022. L'ultima era circa fine maggio. Sì, spiegheremo a tutti perché, cosa a tutti, successo. Compresi gli interni che probabilmente non se ne rendono conto. Tuttavia, abbiamo un responsabile playlist che è Virginia, playlist e che ha decretato, io prendo tempo, che noi si vada ad ascoltare dei Klaxons. Vuoi dire tu il nome del brano mentre io lo seleziono? Ma certo, lo dirò molto lentamente. No, l'ho già trovato, puoi dirlo anche okay. Così. Gravity's spedi. Rainbow. Incredibile, i Klaxon su Radio Forte, 100 celle Avengers. We'll be right back. c'è lo stacchetto finale dopo il pezzo. Stai ascoltando Malodimo. Radio Forte. E questa è Centocelle Avengers. Bene, vabbè, questo è venuto bene, la prossima volta ci coordiniamo un po' meglio, facciamo anche delle armonizzazioni. Esatto. Voglio dire, abbiamo i mezzi, abbiamo per caso, no? Dovevamo farlo. Esatto, esatto. Comunque mi piace questa questo rientro Roots. Sì, tipo Radio sì, 3, sì, no? Sì, musica sì, da po'... camera con le variazioni, cioè, del maestro Struber, Struber Augenthaler che ha ideato questa sinfonia. Niente, Betta non mi sta mai sul pezzo, niente. E niente, no, perché almeno un po' di sottofondo. Io capisco che Radio 3 sentite Radio 3 allora. Cioè, noi già siamo così attaccati. Ma più che altro per dirvi, per rendervi consapevoli, perché sicuramente non ve ne siete accorti di tutto ciò che è successo fra il che era 28 maggio e 21. L'11 novembre 21. Grazie Virgi per la precisione. Almeno ho azzeccato il giorno della settimana, forse 21-28. E quanta acqua sotto i ponti. Io cercavo modi per diciamo per metaforizzare questa cosa e me ne è venuto in mente uno incredibilmente azzeccato per Centocelle Avengers, se non fosse che, come ho già detto più volte, come Avengers sapete poco degli Avengers, quindi io tutte studiando. Le volte diventano dei grossi spiegoni. Ora, quello che mi ha fatto riflettere di più è stato il saggio, il nostro saggio di musica, che era il nostro punto di arrivo e che, cioè, in teoria doveva essere un purpurri di puntate anche speciali, extra puntate in diretta, invece niente, dal 21, ripeto, maggio, noi siamo entrati in questo canale di accadimenti nefasti o infausti o... che ci portano quest'oggi a risvegliarci in un futuro distopico, praticamente. Quello che voglio dire è che, oltre a due saggi sotto i ponti, ci siamo trovati pure con un governo nuovo. Cioè, voglio dire, c'è una sensazione, se uno dovesse appunto ascoltare in podcast le nostre puntate sul sito radioforte.com/Centocelle Avengers, se ascolta la puntata 39, alla 40 si ritrova con... No? Voglio dire, ci siamo risvegliati male. Ci siamo risvegliati male. Quindi, per creare un po' anche il collante con chi dovesse stare ascoltando la 40esima dopo aver appena finito la 39, sappiate che era maggio. Farlo, eh? Eravamo persone diverse. Sono passati sei mesi. Quindi, vabbè, non questo... che a maggio il clima politico possa arrivare su una, cioè, diciamo, fosse chissà come più no, roseo. Non stavo mitizzando il passato, ecco. Però voglio dire, per avere un presente così ci si voleva, ci si doveva veramente impegnare. E quindi, parlando al suono di sei mesi fa e alla Gab di sei mesi fa, appunto dico: hai vissuto un blip, fratello. Questo è il blip. Che cos'è il blip? Mo adesso è ripartita per fortuna al momento giusto la musica, grazie. Non si è sentito. Va bene, comunque. Comunque il blip è quel momento storico in cui... Allora, attenzione, faccio spoiler. Lo voglio dire che faccio spoiler, ma la decisione della redazione è mia, è che a un certo punto non ce ne frega più niente di chi eventualmente non si è visto almeno i film principali degli Avengers. Non dico i vari spin-off, spin-out e film sul singolo, ma i film degli Avengers. Per cui, per blip intendiamo quel momento in cui Thanos, cattivo per eccellenza, schiocca le dita alla fine di Infinity War, quindi il penultimo, diciamo, dell'epopea avengeriana. E fa l'effetto un po' Impero colpisce ancora, che è appunto il penultimo della... Vabbè, lasciamo perdere il paragone. Comunque il finale de merda, finale dove muoiono tutti. No, muore metà del mondo, compresi i supereroi. Quindi muore, per dire uno, Spider-Man. Cioè muore gente importante, polverizzati da uno schiocco di dita. Si sgretola, non è che muore. Ora, vieni a me, è chiaro che in Avengers Endgame gli Avengers in qualche maniera, che non diremo, giusto per lasciarvi scoprire quell'intreccio incredibile di trama che si sono inventati, gli Avengers rimetteranno le cose a posto, però lo faranno 5 anni dopo, quindi praticamente riporteranno alla vita, tipo Dragon Ball, tipo le sfere del drago, tutte le persone uccise da Thanos, che però per 5 anni ci sono state. Quindi ci sta praticamente da lì in poi, nei prossimi, nei film che seguono nell'epopea appunto della MCU, un riferimento al blip come appunto questo blackout totale dopo il quale alcuni stavano ancora sulla Terra, non erano morti, altri erano morti. Che è successo? Che mi sono perso? La Meloni ti sei perso, per esempio. Questo è stato detto a Ant-Man quando è riuscito dal suo tunnel temporale, per esempio. Ant-Man ha preso male, ma altri comunque sconvolti anche dall'apprendere che il saggio di musica è zompato per il Covid. Ancora nel 2022, cioè questo per anticiparvi delle notizie bomba dell'attualità, questo è accaduto, questo blip lo ricompenseremo piano piano, lo riempiremo di nuovo ritornando sincronizzati col mondo piano piano in queste due ore incredibili in cui io smetterò di parlare così, però quando parlo degli Avengers lo sapete che un pochetto no? Okay. Quindi ci sono domande sul blip, su qualcosa che non ho spiegato bene? No, anzi ho colto anche l'unione con noi, che siamo un po' i piccoli centocelle Avengers, anche noi un po' Avengers. Il link dello slip. Loro 5 anni, noi 5 mesi, è giusto. Mi fa piacere che ha fatto breccia nel cuore della professoressa Viola questa metaforona incredibile della nostra vita. Io poi, capito, un debole per le metafore, quindi... Esatto. Tra l'altro io non ho visto gli eventi, io sono una di quelle persone che deve studiare per questa trasmissione, ma mi ricorda molto una serie bellissima che si chiama The Leftovers, che se non l'avete vista succede esattamente, anzi più o meno, insomma, questa cosa qui. Oh, mi stai a rubare il mestiere? Ma non ho portato niente. Sì, tra l'altro avevo detto appunto che i sceneggiatori di Avengers sono gente tosta, che è andata a cercare intrecci, trame veramente invidiabili e quindi non è un caso che ce ne siano 18 serie che fanno la stessa cosa. E tra l'altro, vabbè, a questo punto non la posso citare un'altra frase di Avengers. Ma come ormai cambiamo nome. Ma dico, a un certo punto uno chiede: ma che davvero stiamo a risolvere tutto come Ritorno al Futuro? Citazione dal film. Per dirvi che l'autoconsapevolezza autoironica in cui è entrato il mondo dell'MCU, dopo che comunque strizzano l'occhio ai vecchi ma fanno divertire i giovani, in pratica poi ci sono tutti i riferimenti a film degli anni 80 che già c'aveva la stessa trama, perché che te vuoi inventare? Voglio dire, ma non buttiamoci giù, perché noi siamo i supereroi della musica, poi che è un altro file, cioè non è che i nostri intrecci sono sì molto molto intrecciati. Tant'è vero che io adesso metto una cosa per strecciarci mentre ascoltiamo musica, ci strecciamo le idee. Metti una cosetta. Metto una cosetta, che è sempre la produzione Virginia and Virginiers. L'ho fatta io questa canzone, sì. Direttamente dalla colonna... No, non è vero. Magari. Direttamente dalla colonna sonora di Guardiani della Galassia 1, se non sbaglio. Mo' so perso. Wow. Sì. La canzone chiama Brandy, You're a Fine Girl. Su 100 c'è le Avengers. On a western bay, and it serves 100 ships a day. Lonely sailors pass the time away and talk about their homes. And there's a girl in this harbor town, and she works laying whiskey down. They say, Brandy, fetch another round. She serves them whiskey and wine. The sailors say, Brandy, you're a fine girl. You're a fine what girl. A good wife you would be. Such a fine girl. Yeah, your girl. Eyes could steal a sailor from the sea. Brandy wears a braided chain made of finest silver from the north of Spain. A locket that bears the name of a man that Brandy loved. He came on a summer's day, bringing gifts from far away, but it made it clear he couldn't stay. No harbor was his home. The sailor said, Brandy, hey, you're a fine girl. You're a fine what girl. A good wife you would be. Such a fine but my girl. My love of my lady is the sea. When he told his sailor's story, she could feel the ocean falling rise. She saw its raging glory, but he had always told bars close down. Brandy walks through a silent town and loves a man who's not around. She still can hear him say, she hears him say, Brandy, hey, you're a fine girl. You're a fine what girl. A good wife you would be. Such a fine but girl. My life, my love, and my lady is the same. Yes, it is. Brandy, you're a fine girl. What a good wife you would be. Such a fine. Stai ascoltando Radio Forte. E questo è 100 Celle Avengers. Ma sei bravissimo, grazie, veramente. Grazie, grazie. Mamma mia. Meglio del computer. Mamma mia, veramente. Mario ci sarebbe fero. Meglio di Pippo. Grazie. Ciao. Sempre su Radio Forte 100 Celle Avengers alle 17:22 rientriamo in diretta in questa fatiscente 40esima puntata del nostro show. Che fatiscente, stavolta l'ho messo sottofondo. No, infatti. Cioè, ma non colpevolizza solo te. Di base, colpevolizza se stesso. Poi. Ma intanto diciamolo pure che stiamo trasmettendo dal invece solido palco della, di Radio Forte. So palco. Palco. È quello che ho fa. Avuto un lapo su. Che rende la parola solido un po' autoironica, ecco, perché ogni volta che ridiamo troppo. Si sente una sensazione, trema. Diciamo, da atterraggio di Iron Man. E invece è per questo che siamo tutti così seri e integerrimi. E cerchiamo di non ridere, di fare una radio pacata, assennata. E cosa succede adesso? Cosa succede? Allora, inizierei subito col dire che stiamo per mandare la prima sigla di questa puntata e di questo nuovo inizio. Perché va bene tutto, ma comunque il settore sigle è quasi rimasto intatto. Meno male. Se no, non lo so, sì, vabbè, diciamo, è brutto fare affermazioni poco prima di mandare la prima sigla della nuova era. Chissà se parte. No, chissà se parte. Diciamo, i propulsori sono tutti su on. E tu vuoi dire qualcosa su che sigla? Cioè, nel senso, mandiamo sigla così a buffo, diciamo anche di cosa? Diciamo la rubrica. La rubrica è la rubrica dell'anno scorso, in realtà. Lo Squadra Elementos. Noi riprendiamo da dove ci siamo lasciati l'ultima volta. Ok. Questo è un governo di continuità, no. Questo è il facente funziona, la sigla facente funziona. Poi diremo anche le novità, ovviamente, però... Chiedo perdono. Serve una parola magica. Sigla. Lo Squadra Elementos. Lo Squadra Elementos, l'aire e l'acqua che non fanno quanto Elementos. Que tocan juntos los cuatro elementos. Los cuatro elementos, tierra, fuego, el aire, el agua, cuatro elementos. Los que tocan la música juntos. Ay, ay. Sì, vabbè, sta durando un po' troppo sta sigla, eravamo tutte lunghe. Come sì? Dai, chiudiamo. Los cuatro elementos. Los que tocan la música juntos. Juntos. Ay, ay no. Povero Gutierrez, il mio pinguino di ceramica. Niente, studio, scusate. Niente, avevo talmente voglia di mandare sigle che mi sono partite tutte, ma nessuno l'ha riconosciuta. Anticipiamo? No. Anticipazioni dei mali. Niente, raga, io ve l'ho detto, andrà tutto così oggi, quindi cioè, prendiamola con sport. Adesso non c'è neanche più il sottofondo, pensa un po'. Purtroppo non possiamo ridere perché, come dicevamo prima, balla tutto, quindi dobbiamo essere seri in queste cose che accadono, ovvero la nuova rubrica delle sigle, quindi mandane un'altra. Okay, no. No, vabbè. Non mi mettere... Vabbè, non mi mettere troppi paletti che poi io, cioè, lo sai che non c'ho più. Bastava che non stoppavi. Di mestiere. Sì, ma potevano torniamo. Andare anche tutte. Ma torniamo a noi. Ma torniamo a quello. Perché sì. Abbiamo mandato la sigla dello Squadra Elementos? Perché? Allora, innanzitutto ci sono svariate motivazioni. La prima è perché mi piace la sigla e quindi volevo appropriarmi di questa rubrica per mandarla ancora e ancora e ancora. E poi c'è un'altra motivazione, ovvero che io ho un sacco di roba contro tutti e da mandare e da rendere pubblica. Quindi fa parte dell'anno scorso, dell'anno che è finito, quindi io direi che comunque un po' di contributi, diciamo, per noi, soltanto per noi, un po' autoreferenziali, ci stanno comunque sempre bene, anche perché in questo contributo qua io volevo fare un omaggio ai maestri del laboratorio. Oh, diciamo, ai loro... Applausi, facciamo applausi. Un applausi. Un applausi. Ma che bravi, sembra quello finto, invece è vero. Io, cioè... Hai visto che bravi? Oh? Cioè... No, grande, cioè, l'applauso è venuto bene. Perfetto. Io ho sentito una sterza, cioè sentivo un'aria da sassetto nella scarpa, invece poi sembra una cosa bella. È un omaggio. Se capisce se è una cosa bella o una cosa brutta, prego. È una cosa oh, a metà. È un omaggio ai maestri del nostro laboratorio che hanno due approcci completamente diversi, ecco, diciamo qui. Quindi puoi, maestro, anche prenderla come vuoi. Io direi che sì. Quindi abbiamo un reperto? Abbiamo un reperto amorevolmente montato. Sparava tu. Va tutto, oggi ho capito che io ti seguirò sempre. Alla fine del tuo film io entrerò. Poi te non suonavi all'inizio, eh? No. Quindi potevamo pure prendere la scia, scusate. I pochetti dopo sul palco ti metti. Grande, arriva dopo. Tutti e cinque a tutti, grande. E quelli suona. Ligabue, praticamente. Io provo senza leggere, ma mi verrà l'ansia, quindi sbaglierò. Questo brano l'hai scelto tu, non puoi sbagliare. Grande, ma è... La chiusura del maestro Alessio con la saggezza. Grande, comunque. Due approcci diversi, porta. Come dicevamo. Niente. Complimenti, Virgi, come al solito ci lasci... Grazie. A parte che ci dai degli inediti, cioè un Ligabue che non avevo mai sentito, neanche al saggio mi sembra, però no. Non so se me l'ho distratto. Quindi è un privatistas dei privatistas questo? No, si erano inventati un momento in cui farsi un Ligabue per confondermi le idee e io l'ho messo. Complimenti a Virginia. Ancora bravi a tutti gli allievi e i maestri. Cioè i maestri ovviamente, ma anche gli allievi, complimenti. Tanta saggezza. Un altro applauso. Madonna, come ci siamo bravi. Come ci sbrodoliamo oggi? No, comunque no, ti ringrazio soprattutto perché aiuti questo discorso della continuità nella legislatura, il facente funzioni, cioè insomma... Della scuola di musica? Sia la sigla che i contenuti che avete auscultato sono della Prima Repubblica, diciamo. No, insomma, diciamo, riguardano l'anno scorso la situazione della classe di musica d'insieme di Puglisa in quattro gruppi, quindi da cui lo Squatro Elementos, e i brandelli che abbiamo sentito erano le prove dei quattro elementi che si preparavano fra il periodo, diciamo, legislativamente e poi quello che si è creato dopo. Perché? Perché il saggio è stato rimandato, come abbiamo detto, incredibile, fatto sì. Di cronaca, ha interessato moltissimi. Sì, sì. A un certo punto siamo riusciti, nonostante fosse meno male tutta un'altra epoca rispetto all'inizio della pandemia, a ribeccarsi il Covid in un numero abbastanza importante di componenti, per cui è venuto giù piano piano tutto il palinsesto del saggio e ci siamo trovati quindi a luglio a sgomenti. Cioè diciamo che sgomenti. La Prima Repubblica si è chiusa con un mancato saggio. Con un mancato, sì, diciamo che non è poco, nel senso che ci è sempre dato questo... sfogo finale, questo arrivo, questo che senza comunque era un po' strano. Così come è stato strano rivederci con il famoso saggio, cioè, diventato il saggio dei rimandati, cioè a settembre l'abbiamo rifatto e si sono esibite le vecchie classi prima di riformattare tutto. Ecco perché adesso, diciamo, il facente funzione dovrà suonare il campanellino. Come, ormai mi sono visto tutte queste cose, queste procedure di iter, di scambio, di, e quindi si avvicenderà con la nuova organizzazione della scuola di musica d'insieme, che fondamentalmente per il momento considera DOS due elementi e non sì. quattro. Ma quindi anche la scuola di musica è stata blippata? Quindi sì. In un certo senso sì, praticamente è stato il saggio dei blippati, quello di settembre, cioè la gente che era rimasta ancora con la vecchia amministrazione, il vecchio ordinamento, e noi appunto come l'università abbiamo riformato, prego. Ma poi infine è stato ottobre. Sì, tra l'altro è stato il 4 ottobre, perché si dice rimandati a settembre, rimandati a ottobre, giusto noi che siamo dei fraciconi che cominciano bene o male le lezioni ogni anno a ottobre, ma anche un po' tutta l'attività del forte. Ti butti se vogliamo sempre giù. No, hai ragione, scusa Alexa. E quindi che cosa succede? Che quest'anno abbiamo avuto un'altra fonte di ispirazione nei nomi dati a questi due macro gruppi di circa 10 componenti, allenati o diciamo diretti da sottoscritto e dal maestro Alessio, in una atavica competizione fratricida che in realtà combattiamo come concetto, non proprio nella musica, è quello che io più, però mi piace poi ogni anno buttarla in caciara e creare queste cose che poi azioni. Io ci scherzo sopra, invece la gente via sul serio, ma quindi che stanno a fare quell'arte? E niente, diventa tutto l'anno così. Ma stasera hanno la sala più bella, esatto, poi tra l'altro abbiamo due sale, una bella e una un po' meno bella, cioè comunque attrezzata diversamente, e ci avvicenderemo in questo bipolarismo imperfetto come l'Italia, e niente, si è rotto tutto. No, tranquillo, mamma mia, mi avete fatto via l'ansia. Niente, voi non vi rendete conto che non c'è serenità qua dietro, cioè io cerco di reggere botta, ma ogni due secondi qua sale un'ansia di computer, sommato, basi rotte, tutto rotto. No, quello che non avete visto è una finestra con una X rossa che è apparsa all'improvviso. Che non è mai un bel segno, cioè diciamo la X rossa. Vabbè, solo che non hai formattato il computer, no, no, esce per quello. Spero di no. Metterti a formattare. Nessuno tocchi niente, nessuno tocchi il mouse, andrà tutto bene, sentite la musica. Continua a scorrere la voce, continua a scorrere. Abbiamo il lavoro a Giorgino, questa sarà la sua rubrica al massimo. 17:33 su Radio Forte 100 Cell Avengers. Abbiamo appena spiegato un po' come sarà quest'anno. Calla. Come sarà quest'anno la scuola di musica, ma non mancheremo anche di documentarlo nella stessa maniera in cui l'ha fatto Virginia, cioè spiando i momenti più intimi e imbarazzanti dei musicisti in sala prove. E ma non sono stati detti i nomi di questi due nuovi gruppi? No, appunto, quello che poi verrà fatto in maniera anche un po' più, come dire, cerimoniosa è elencare i 20, circa 20 componenti, 10 e 10, dei due gruppi. Però dici, almeno dimmi come si chiamano i gruppi. Almeno questo. Scusate, io mi perdo in un bicchiere d'acqua. Quindi, che secondo me pure qua siamo sul pezzo del fatto della nuova società che ci troviamo davanti. Sì, perché secondo me come nome siamo andati su, da quel lato là. Allora, sì. Dopo gli Assiri, dopo Squat Element, cioè cose, come ci chiamiamo ora? Ma ditelo. Cioè, nel senso, diciamo, la scelta che abbiamo fatto rispecchia i tempi che stiamo vivendo, questo intendi dire. Siamo tornati a roba più primordiale, però. Sì, ancora più primordiale degli Assiri e dei Babilonesi, pensa un po'. Diciamo, c'è una... dell'acqua e della terra. Il brodo di cellule. Ragazzi, state a fare un hype su questi nomi. Quando i nostri cervelli stavano formando. Non sono piaciuti, quindi non sono più, è quello capisco, che volevo sottolineare, che poi c'è... Cioè, è una dittatura di una manciata di quarantenni blippati. No, però secondo me a quell'epoca noi, quando appunto adesso diremo i nomi, e quindi eravamo tutti piccolini e stavamo, il nostro cervello già si stava plasmando per quel tipo di società attraverso la televisione. Vabbè, ma non voglio dilungarmi su queste cose, stavo facendo proprio una cosa. Vabbè, basta. No, prego, poi se proprio la vogliamo dire tutta, i nomi sono stati già detti, però. Cioè. Non sai già detti? Ma quando? Beh, nella sigla, no? Oddio. No, quali? Quale sigla? Abbiamo una sigla. Allora, Francesco, c'è stato un blip, ragazzi. Francesco è andato da una parte e noi siamo andati da un'altra parte. Questa è intesa, puro. Qualcuno può dire i nomi? Allora, quest'anno le classi sono due, Franci, quindi non sono quattro elementi, aria, acqua, terra e fuoco. Scordiamoci. Bensì due squadroni acerrimi rivali che rispondono al nome di Jam e le Holograms da una parte. E i Beehive dall'altra. Ora, questo è perché appunto quella manciata dei quarantenni che hanno fatto il colpo di stato nella scuola di musica più o meno sono presenti qua, quasi tutti, per cui ci sta un fomento, ma c'è una parte dell'Italia che comunque questi simboli non li vive più. Però questo è un modo appunto per sottolineare come noi appunto intorno ai 40 anni oggi siamo classe dirigente e quindi questo è. Ma di fatto per fortuna ci sono anche studenti più giovani che appunto non erano troppo entusiasti di questi nomi, magari non sanno neanche a cosa si riferiscano, però appunto soprattutto senza una sigla io capisco che non vi poppia l'innamoramento. Arriverà dalla produzione una sigla dedicata allo SDOS Elementos, che non si chiamerà lo SDOS Elementos, ma è una promessa elettorale che mi sento di fare, perché la musica sale e quando sale uno le spara grosse. Quindi, alla fine di questa grossissima parentesi di attualità, ci sentiamo più informati, ma che se sentiamo? Non ci vogliamo sentire un pezzo derivante dalla Repubblica precedente? Cioè, tu mi stai dicendo, mi stai facendo un mischio, cioè, nel senso, questa cosa avviene quando c'è una sigla dedicata... Non allo Stolos Elementos, ma al ricordo, uno, il ricordo, la Marcord. Oh, grazie, grazie maestra Gabri Grubi, bello, grazie professoressa salita. Viola. No, maestra perché si è ricordata la rubrica che si occupa del passato, del saggio che non ricordavi di aver fatto. Io spero che Betta a un certo punto tiri giù gli Avengers, perché adesso c'è la sigla. Ricordati di te com'eri prima. Un'estate fa l'anno vecchio è finito ormai. Un'estate fa tutti quanti stiamo già aspettando. Un'estate fa messaggio che è un nuovo anno. Mi ricordo che anni fa. Un'estate fa ricordati di me. Dammi tre parole. Devi fare stop. E niente, c'è sempre quel momento in cui il ciclista si fomenta e come dargli torto. D'altra parte c'è chi fa solo quello di lavoro e quindi è il suo momento. E così come ci sta chi avrebbe dovuto, diciamo, rendere questo momento meno... Non dicevo a te, Betta, no, tranquilla. No, parlavo di me stesso sempre. Nel senso che ho una miniera, ho un'altra volta una miniera da cui scavare e trovare diamanti. Parlo della registrazione del saggio di musica che quest'anno è durato solo 4 ore e 26 bere, ok? C'ho la lunghezza davanti agli occhi e che quindi sono, insomma, un po' indietro nella fase dell'editing, quindi praticamente quasi non so cosa stiamo per ascoltare. Ma so che random, eravamo così. Noi, mm-hmm. So che è stata dura, ma ce l'abbiamo fatta. E era il 4 ottobre. Come? È il secondo pezzo nella lista. Era bello che io non lo sapessi. Cioè, so che comunque non è il primo, quindi andava bene. Vabbè, ma lasciamola così. Sì. Comunque... Vai, il saggio a scatola chiusa. Correva. Il 4 ottobre. Correva il 4 ottobre. E ultimo scorso. Al saggio la scuola di musica forte, la musica d'insieme, eseguiva Shakira Leaves. Chissà. Can't remember to forget you. Shakira e Rihanna. E adesso è qui con noi sul palco lui, l'altro alto, altissimo, grandissimo, meraviglioso. Sono qua. Dov'è? Eccola qua. Sorpresa. Possiamo smetterla di parlare, perfetto. I let the love of my bad thoughts seem not to repeat. Yesterday's mistakes, what I tend to do when it turns on you. I see only the good. Follow. Whoa, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, o 100 Avengers. Ah, Viola, dovevi far finta di essere confusa. No. Vabbè, ma lei era maestra. Sto facendo finta, ragazzi. Pensate che io sia veramente confusa? No. Tutta finzione. Che attrice, ma come fa? Che ne so. Siamo meglio dell'algoritmo. Stai ascoltando Radio Forte. No, e questa è 100 Avengers. Oh, ma che bravo! Capito? Ci ha dato sto schiaffo. Spottino, eh? Come se lo avessimo in tasca. Esatto, invece? Alle 17.44 del 5 novembre su Radio Forte 100 c'è gli Avengers e invece no. Dai, non abbiamo pensate anche voi che The siamo. Human Spot. Quest'oggi ci mettiamo veramente la faccia e abbiamo ascoltato Giufi, Soli. Erano Giuli e Sofì alla voce di questa formazione che in realtà io ho presentato come musica insieme, ma erano i pirati della, come si dice, della rivolta, cioè, insomma, coloro che si chiamano privatista al saggio e che si aggiungono al minutaggio del saggio e che portano pezzi che i maestri gli hanno negato. Fa questa voce soltanto perché quest'anno non li ha fatti i privatistas, perché gli altri anni li annunciava con un orgoglio che guardate proprio manco, faccio finta di niente. Starosica. Un po' starosica. Ci sei mancato, maestro. Starosica. Che ragazzino. Sì, no, mi mancate anche voi, in effetti è una realtà che ho calpestato in qualche modo. Niente, vabbè, non anche mi stancherò mai di dirlo. È un elemento di continuità, cioè anche quest'anno avremo i privatistas, certo, quindi ovviamente mi confermate, ecco, sì, grazie. No, tuttavia, cioè, mi permetto di dire così a chiusura di questa parentesi di attualità sul saggio, sul funzionamento, che una riformetta al sistema di composizione del saggio di è stata auspicata da diverse parti del Parlamento. Se avessimo avuto Angie qui, non so se ci sta ascoltando, comunque lei lo diceva durante il saggio, ma diceva io propongo una cosa per l'anno prossimo, dico, ne portiamo uno pezzo a gruppo, due al massimo. E che famo tutto l'anno però, cioè poi mettete pure nei panni di quelli che suonano. Vabbè, comunque sì, questa è una proposta, un disegno di legge molto estremo, comunque insomma non so se troverà poi consenso, ecco, magari no. Vedremo. Vero è che comunque c'erano delle differenze, quest'anno il saggio è stato unicum, mentre di solito viene diluito in due comodi saggi, uno a metà anno di carnevale e l'altro a fine anno, quindi praticamente avevamo tutto un repertorio infinito, ogni gruppo, e questo non accadrà più. Spero perché vabbè, perché sì. Certo. Vabbè, notoriamente i saggi sono sempre durati quelle 3-4 ore. Ma sì, infatti. Ma bando alle ciance alle bande, che cosa succede dopo che ci siamo lodati da soli? Sempre per riprendere da dove ci eravamo lasciati, l'ultima puntata l'avevamo conclusa con la nuova rubrica, in realtà la più nuova delle rubriche, che è la rubrica del nostro Francesco, ovvero, ti prego dillo tu il nome. Welcome to Grand Hotel Hilbert. Grazie Francesco. Scusate, e la voce, quindi io pensavo l'avevi fatta apposta. No, è Ligabue fino a una certa. Tipo Ferruccio Amendola, capito? No. Queste voci un po' calde. E quindi niente, sempre per mantenere diciamo un po' lo stile di prima, ovvero andare a cercare le cose che sono un po' da piazzare i panni sporchi da lavare in pubblico, io ho trovato un contributo che sarebbe benissimo con questa, ah, sì? Con questo inizio di rubrica. Vogliamo ascoltare? Dalla sua voce proprio, dalla voce del conduttore. Dalla viva voce del maestro, sì, Fra. Sì, sì. Vado, eh? Prego. Incredibile. Comunque, io mi sono convinto che se quella puntata la ridico non si accorge nessuno e riparlo delle stesse cose, proprio fra infinitamente lo stesso argomento. Un buon grado di consapevolezza. Ah, però vedi che c'è anche il tuo zampino, hai detto qualcosa anche tu. Sì, eh? Ma io ti stavo dando degli input negativi, non stavo dicendo non fare così. Questo è il metodo scellerato che utilizzano quelli che ne so, che scrivono una serie TV e poi non sanno come andare avanti, che cominciano a fregare il produttore, come... E quindi oggi ripeterà la stessa puntata dell'altra volta. Quindi oggi, esatto. Cioè, in teoria... No, non è vero. Va bene. È vero che abbiamo avuto il blip, non hai avuto il tempo neanche di debuttare, che poi appunto non siamo più andati in onda. Tra l'altro, se lo ricordate, sei andato negli ultimi... Sì. Gli ultimi 5 minuti di trasmissione, che di solito sono i più briosi, ecco, diciamo, e tu devi parlare di una roba che insomma, sì, è una cosa che richiede perché no. Si affronta a prima ora, diciamo, cioè, diciamo che, esatto, bravo, quando si dice oh spiego a prima ora perché sennò poi dopo siete troppo stanchi. Ecco, di Franci, cosa ci parli, comunque allora? È un personaggio spesso, di cosa ci parli oggi? Allora, oggi parliamo del circolo delle quinte. Aia. E di come esce fuori, diciamo, da un punto di vista matematico. Ma e mandiamo. Ah, prego. Sigla. Nel corso della nostra esistenza andiamo alla ricerca di parole che riescano a descrivere adeguatamente le continue perturbazioni dell'ordine e del caos dell'intero tessuto del cosmo. Auspichiamo la conoscenza, la rivelazione, la catarsi. Per questo esiste la filosofia. Ma la filosofia si fonda sulla matematica e solo la matematica può farci intuire la verità dell'universo. Avete fatto altro che scrivere tutti i numeri di 216 cifre tentando di decifrarli, di intonarli. Non è vero? Quel numero non è niente. Non siete voi prescelti. L'ho trovato io. L'ho trovato io. E io solo l'ho capito. Sarò io a vedere Dio. Ma mi sembra un po' fuori del programma e poi magari non a tutti interessa. Sì, sì, sì, certo. Altro, chiunque riesca a riconoscere questi due film, il secondo è più facile, però il primo è un pochettino più tosto. Il primo no, ma la chiusura veramente, grazie. La chiusura ci stava bene. Io li devo sapere. No, io pure non li ho capito. Il primo è Pi greco, il teorema del delirio, ah, di Aforonsky, si chiama Aforonsky. Ops. E l'altro è di Bianca, di Nanni Moretti. Ah sì, ecco, Nanni Moretti. Il pezzo prima viene bullizzato dai... Esatto, gli chiedono di spiegare il quadrato magico, di cui forse parleremo una volta. Tra l'altro. Esatto. Va bene, ma oggi vi riporto sulla retta via della musica, dopo aver parlato di disagi, di blip e niente. E quindi parliamo di come fondamentalmente esce fuori il circolo delle quinte. Scopriamo come funziona. Anzi, perdonate innanzitutto la voce, ragazzi, perché ero talmente emozionato che se mi sentite cadere non vi preoccupate. Non si preoccupa. No, Betta, okay. Ti ha già alzato il fader, non ti preoccupare. Ok. Quindi scopriamo come funziona. Soprattutto perché funziona la regola che nel circolo delle quinte fa sì che ad ogni passaggio di quinta vengano riprese esattamente le note della quinta precedente, ovviamente in un ordine differente, ad eccezione dell'ultima nota della scala. Allora, tale proprietà deriva fondamentalmente da tre osservazioni. Allora, la prima è di carattere intuitivo, cioè nel senso che le note sono cicliche, nel senso che terminando un'ottava esse si ripetono esattamente nello stesso ordine. Grazie, abbiamo il contributo del maestro. Ho okay. Avuto questa illuminazione. Abbiamo questo pezzo della Barilla che ci riporta sempre. Okay. Ok, allora ciò avviene in quanto l'insieme dei semitoni è un insieme finito. Le note sono ovviamente finite. In particolare, per tornare diciamo alla cara amata matematica, tale insieme è soggetto alle leggi dell'aritmetica modulare. Che cos'è l'aritmetica modulare? Allora, l'aritmetica modulare è la parte della matematica che si occupa di studiare gli insiemi finiti di numeri determinati dai resti della divisione per un modulo, che a sua volta non è nient'altro che un numero naturale. Mannaggia, c'ero quasi. Lo potevi dire prima. Non vi preoccupate, che fra un po' pulsantini. È più facile di quello che pensate. Vabbè. Non vi preoccupate, fra un po' faremo un esempio. No, vabbè, comunque, scusami se ti interrompo, Franci, però c'è Emanuela in ascolto che nel frattempo ci scrive e interagisce con noi sulla chat di Telegram. Ecco, per dire che insomma, parla pure perché Hai orecchie che ti... Penso che lei appartiene a... Allora mercoledì la interrogherò su tutto quanto. Okay. Manu, se non dovessi capire qualcosa, insomma, come nostro feedback, sempre utente medio. Lascerò degli appunti online. Utente zero. Utente zero, esatto. Utente zero. Facci sapere. Allora, vai, i numeri appartenenti a questo insieme hanno tre caratteristiche fondamentali. Hanno esattamente, gli insiemi appartenenti a questi, agli insiemi modulari, hanno tre caratteristiche fondamentali. Hanno esattamente n elementi, da 0 a n-1, dove n è il valore del modulo. Se la somma di due elementi dell'insieme supera il valore del modulo, cioè supera n, allora il risultato è il resto della divisione del numero ottenuto per il modulo. Cosa? Attenzione che è facile, non vi preoccupate. Se ad un elemento dell'insieme viene sommato il valore n, si riottiene esattamente lo stesso elemento. Allora facciamo un esempio. Ma così. La discesa quando arriva? Facciamo un esempio, perché io forse... ho capito, ma questo era solo per fare. Facciamo un esempio. Allora, Virgi ha capito intanto, esempio. È già uno. Allora, ad esempio, incesto. Se noi prendiamo l'insieme modulo 5, ok? Sì. Forse non ho allora... come? Appena cominciato. Modulo 5. Allora, questo insieme ha esattamente 5 elementi, quindi lo 0, all'1, al 2, il 3 e il 4. 5 okay. elementi. Okay. Che cosa sono questi 5 elementi? Non sono nient'altro che i resti della divisione per 5. Sigla! Lo 5 elementi. No, raga, dai. È facile. Non no, è scusa. Ok. Allora, che cosa succede? Se io sommo questi elementi e rimango all'interno del modulo, ottengo un elemento che è ancora interno. Ad esempio, se io sommo 1 e 2, ottengo 3. Sì. E 3 è minore di 5, quindi ottengo 3. Chiaro. Se ad esempio io invece sommo, 3 e 2, anzi facciamo 3 e 3, così supero, ottengo 6, che è più grande di 5. Sta fuori. E 6 diventa 1. Sballato, quindi. Okay. Sballato. Ah, 6 diventa 1. Okay. Allora, che cosa vuol dire in termini pratici? Che ve lo spiego? Allora, che cosa vuol dire? Che essendo le classi resto, vuol dire che se io sommo, un numero che diviso per 5 mi dà 2 e un numero che diviso per 5 mi dà... No, scusa, sbaglio. Un numero di diviso... No, ho sbagliato. Chi è che c'aveva paura che non andavamo a riempire le due ore? Se io... Aspetta. Ce l'ho. Se io sommo un numero che è divisibile per 5 mi dà resto 3 e un numero che è diviso per 5 mi dà resto 4, okay. Ok, ottengo 3 più 4, 7, okay. Che modulo 5 fa 2. Ho capito. Quindi vuol dire che ottengo sicuramente un numero che quando lo divido per 5 è divisibile per 2. Okay. Questa è proprio una regola generale di questi insiemi. Chiudo la parentesi su questi insiemi e torno a bomba sulle note. Okay. Allora, i semitoni musicali non sono altro che un insieme modulare di modulo 2. No? Quante sono le note? 5. I semitoni, scusate. 12. Sono? 12. E le note sono un insieme modulare di modulo 12. Vengono infatti rispettate tutte le proprietà precedenti, in particolare la seconda e la terza. Mi piace questo sottofondo, da fastidio. No, sta buono. Bellissimo. Loro odiano questo. In particolare la seconda e la terza, che garantiscono il fatto che se mi muovo di un intervallo all'interno di un'ottava, rimango nell'ottava stessa. Altrimenti finisco nella successiva e sulla stessa identica nota se mi muovo di un intervallo di un'ottava, cioè di 12 semitoni. Ok. Oh, eccoti. Questa era la parte più difficile, adesso viene la parte più facile, non vi preoccupate. Allora, la seconda osservazione è che la nota successiva presente sul circolo delle quinte, cioè appunto la quinta della scala, è sempre presente all'interno della scala della nota precedente. Questo avviene per il fatto che essendo la nuova nota appunto una quinta rispetto a quella di partenza, ad esempio il Sol rispetto al Do, essa è distante esattamente 7 semitoni. Perfetto. Che è la misura individuata dalle prime quattro distanze della regola della scala maggiore, cioè tono, tono, semitono, tono. Ok. Che cosa garantisce questo fatto? Questo fatto garantisce che qualsiasi sia la nota su cui costruisco la scala maggiore, la quinta è sempre presente in essa. Infine, come ultima osservazione, notiamo che a partire dalla quinta la scala maggiore si ripete con una struttura quasi identica a quella che determina la scala. L'unica distanza che cambia è quella dell'ultima nota prima della nota di chiusura di un'ottava. Abbiamo infatti a partire dalla quinta che la struttura della scala è TTS, tono, tono, semitono, tono, tono, semitono, mentre quella della maggiore è tono, tono, semitono, tono, tono, tono. Ed è proprio questa quest'ultima differenza di intervallo a far uscire l'alterazione dell'ultima nota della scala ad ogni cambio di quinta. Queste due ultime proprietà ci consentono di pensare alle scale del circolo delle quinte come elementi di una successione ricorsiva. una successione ricorsiva, non è nient'altro una serie di elementi ordinati che vengono scritti a partire dall'elemento precedente. Ok? Allora, come viene fuori quindi la regola del circolo delle quinte? Allora, niente paura, adesso prendiamo le nostre bel paio di forbicine stondate euclidee. Chi deve andare alla lavagna? E ce lo costruiamo con le tre regole poc'anzi spiegate. Allora, parto dalla scala di Do, che tutti conoscono, quindi Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, perché è quella la più facile di tutte. Ma solo perché abbiamo visto ieri sto gatti. Esattamente, perché conosciamo Bucina della Barilla, che è quella. Anche. Anche. Allora, per la seconda proprietà, so già per certo che l'elemento successivo del circolo delle quinte, cioè il Sol, è presente già nella scala di Do, come è nota. Per la terza proprietà, invece, so che per costruire la scala di Sol posso inserire tutte le note della scala di Do, tranne l'ultima, che mi troverò semplicemente inserendo la nota stessa della scala diminuita di un semitono. Quindi è il Sol, ovviamente sarà il Fa diesis. Ok. Infine, per la prima proprietà, so che una volta arrivato al Si posso proseguire con il Do senza problemi, cioè nel senso le note poi si ripetono una volta superata l'ottava. Ed ecco quindi che mi sono creato la mia scala di Sol, quindi sarà Sol, La, Si, Do, Re, Mi, Fa diesis. Ok. La regola ricorsiva appunto per generare le scale in senso orario del circolo delle quinte è la seguente. La scala relativa alla nota X si scrive partendo dalla quinta nota della scala precedente, ok? Poi metto tutte le note successive che ci sono della scala precedente e chiudo con la nota alterata, diciamo, della scala. Quindi nel caso del Sol chiudo con il Fa diesis. Chiudo con una furbata, ovviamente, per far tornare il discorso del circolo delle quinte e dei diesis. Chiaramente quando mi muovo in senso orario metto i diesis e non i bemolle. Chiaramente tutto questo ragionamento ovviamente tutto questo ragionamento è scalabile anche in senso antiorario. Questa quando ragiono con i bemolle. Io farei la base. Questa la sapevo. Allora, io vorrei, mamma, è faticaccio. Vorrei abbandonare la musica se fosse possibile. No, allora, intanto abbiamo un commento pure in diretta da Giorgino che ci sta ascoltando e dice: viva l'angolo matematico musicale, grazie Francesco. Grande Giorgino. Poi grazie. Si risentirà tutto con calma, dice. Io gli sto rispondendo che un paio di ascolti gioveranno anche a me, sicuramente. Tanto la prossima la ridice. È quella dell'altra puntata, non ce ne siamo accorti. La prossima dirà sempre questa cosa. La dovrò estremamente semplificare. Perché non è vero. Alla fine dell'anno avremo imparato il circolo delle quinte. Ecco. Esatto. Finalmente un po' di teoria. Un po' di teoria. Che in effetti manca musica d'insieme. Ultimamente non si fa più quel momento. Vi siete chiesti il circolo delle quinte? Vi siete chiesti? No, andiamo subito a suonare. Quindi grazie Franci, grazie. Per averci dato, diciamo, l'altra faccia della medaglia, se vogliamo. Mancava magari la visualizzazione, ecco, di tutto ciò, perché è uno schemino anche, diciamo, visualmente utile. Ci dovremmo lavorare su Jitsi, su questa cosa, tipo le slide in diretta. Dovremmo, esatto, elaborare delle slide in diretta. Però comunque complimenti per aver retto botta e aver fatto anche quello che fai di solito. Aspetta. Nel privato, ok. Nel privato, ecco, non istituzionale. Cioè quando ti sei mantenuto umile. Racconti le barzellette e ti scordi. Ah no, aspetta, ma te l'avevo detto che... Okay. E ti prego scusaci, oggi non ti abbiamo bullizzato tanto. Lo faremo di più. Lo faremo di più. Comunque avevi anche diritto a scegliere la musica che andremo a ascoltare, se non sbaglio. Esatto, ho scelto un pezzo della colonna sonora di Cowboy Bebop. Il pezzo si chiama Want It All Back, perché io rivoglio la mia voce, non ce la faccio più ad avere questa voce rotta. Invece quindi... è bella comunque, graffiata. Per cantare un po' meno, diciamo. Quindi, vabbè. Quindi Want It All Back, Seth Bills. Then you said you were in Paris. ascoltando Radio Forte. Tanto forte al punto che è 100 celle Avengers. Grande, ragazzi, era live. Oh, le siglette live. Da oggi sempre così, eh? Bello, rilassato, fa? Tranquillo, pure le staccate live. E niente, ritorniamo in diretta, prego. E adesso è il momento. Sigla! Del nord. Questo è il nord del nerd. La rubrica di tutti i nord. Volevo dire tutti i nerd. Era uscita, era dobbiamo guarda, cantare anche nerd questa. Al nord. La facciamo live. Sigla. Il mio pinguino di ceramica nello studio guarda sempre verso il Radio Forte 100 celle Avengers. È una rubrica dotta che si chiama Nord del Nerd. Come l'ha chiamato? Nord del Nerd. Nord del Nerd. Su 100 celle Avengers. E buonasera, piccoli nerd! Avete fatto i compiti delle vacanze? No, perché vi volevo dire che è uscita la quarta stagione di Boris e se ancora non sapete che vuol dire non lo famo, ma lo dimo, prendete subito una confezione formato famiglia di popcorn e andate a fare il vostro dovere. E voi, redazione, l'avete fatto? No! Ancora no! Io sì. Mi spoilerate, vi prego, almeno Boris! No, no, no spoiler, specie nel nord del nerd. Grazie. Comunque, dai, a parte, oggi parliamo di un film che mi ha colpito tantissimo, non tanto per la pellicola in sé, quanto per la colonna sonora, che traina da sola l'intera narrazione. Si tratta di Spencer, film del 2021, diretto da Pablo Larraín, un regista cileno già navigato nel genere del biopic, come ricordiamo. Attenzione. Dopo aver esplorato Neruda e Jackie Kennedy, il nostro Pablo si è lanciato nell'impresa di ritrarre la vita della principessa Diana. Quando ho iniziato a vederlo mi aspettavo il solito polpettone sull'Lady Di, per essere poi piacevolmente sorpresa. Il film racconta i tre giorni trascorsi durante le feste natalizie del 91 dalla principessa Diana Spencer a Sandringham House. Ma non sono tanto i fatti a farla da protagonista, quanto il flusso di coscienza e il racconto dello stato d'animo di questa donna durante quei giorni, sottolineato ed esaltato dalla splendida colonna sonora di Johnny Greenwood, che sentiamo anche in sottofondo. Johnny Greenwood è il chitarrista dei Radiohead, considerato uno dei migliori chitarristi di tutti i tempi, pare, almeno stando alla lista dei 100 migliori chitarristi di tutti i tempi della rivista Rolling Stones, che lo pone al 48esimo posto, poco sotto Mark Knopfler. Greenwood è non solo chitarrista, ma suona anche, mettiti seduto, tastiere, pianoforte, sintetizzatore, glockenspiel, che non so cos'è, onda smartenot, viola, basso, batteria, percussioni, campionatore. Viola. Suona anche viola. Suona anche viola. Detto. E poi mellotron, banjo, organo, celesta, fisarmonica, armonica, flauto dolce, tamburo e se gli gira pure tuzia. Sempre uno meno di suono. Nonno esatto. Palmiro, Dio. Esatto, più o meno. Insomma, un artista fenomenale e tra le tante anche compositore di colonne sonore. Con quella di Spencer ci mette davanti a un prodotto bizzarro, pensato per sottolineare i sentimenti di Diana, donna che vede il suo futuro davanti a sé ma già scritto da altri, sin nei minimi dettagli. Quello che dovrà indossare, quello che dovrà mangiare, quello che dovranno persino fare i suoi figli. La musica di Johnny Greenwood per il film, di conseguenza, è spesso inquietante. Amplifica il disagio di Diana per essere stata tenuta prigioniera di fatto a Sandringham House con il marito infedele e la famiglia reale britannica per le tradizioni natalizie. A tratti raggiunge degli apici di fastidio. In alcune scene è così martellante e disturbante che ho avuto persino la tentazione di spegnere la televisione. Beh, guarda, in quel caso ti viene proprio l'istinto, perché veramente c'è un fastidio dentro a sentirlo. Questo risultato viene ottenuto tramite vari espedienti, tra cui l'utilizzo di una tradizionale orchestra barocca, trasformata sostituendo negli strumentisti con dei musicisti free jazz, rendendo quasi palpabile il colorato caos di Diana contro il mood compassato della famiglia reale. A momenti si arriva addirittura a una vera e propria algida e gotica cacofonia, come nel pezzo Frozen Tree che andremo a sentire, o all'uso di suoni comunemente ritenuti disturbanti, come il tritono iniziale nel pezzo di apertura Arrival. Il tritono in musica è un caso un po' particolare, sia a livello teorico che storico. Si tratta, invero, dell'intervallo di quarta aumentata, o quinta diminuita, che dir si voglia. Tra una nota e l'altra c'è una distanza appunto di tre toni, da cui il nome tritono. Il tritono è particolare a livello teorico perché di fatto è la metà esatta di un'ottava e per questo, ripetendo ciclicamente dei tritoni, l'orecchio umano non risulta più in grado di capire se l'intervallo è ascendente o discendente. Provateci, funziona. A livello storico, questo intervallo è stato anche una delle maggiori dissonanze della scala diatonica e a partire dal XVIII secolo è stato anche chiamato, dai che lo sapete, Diabolus in musica. Ah sì, l'accordo del diavolo. Esatto. Ci hanno fatto un album di Slayer pure, è vero. Sì, è piuttosto... No, è vero. Sì, è piuttosto come famosa minimo. Questa cosa. Ah, ce lo disse anche il maestro, il titolo del diavolo. Sì. Come no, me lo ricordo ancora, la prima lezione di teoria. Che cos'è la musica? Scusa. Si dice che fosse così chiamato anche in tempi antichi, infatti, e che addirittura il suo uso fosse stato bandito dalle autorità ecclesiastiche per il suo suono un po' leggermente satanico, sebbene questa informazione si crede sia forse solo una leggenda. Brrr. Il punto in questo caso è che si tratta di una dissonanza, un suono molto teso, che tende i nervi dell'ascoltatore sin dal primo momento, forse avvertendolo che sta per entrare nei labirinti della mente di una donna che visse tutta la sua vita vacillando nell'orrore di vivere sotto il giudizio costante di chiunque, dalla famiglia reale al cittadino lettore di tabloid, che visse odiando se stessa, punendosi, il tutto mostrato sulla pellicola, mentre la musica inquietante del film sembra inghiottirla completamente. Insomma, un film da guardare, consigliatissimo, ma soprattutto da ascoltare. E vi lascio con un assaggio di questa inquietudine. Maestro, così. Chiamo il pezzo. Grazie, così Beth. A tradimento. Prego, carina, prego. Carina. L'albero congelato. In realtà è il 3 congelato. Cioè, i 3 congelati, credo, perché Frozen 3. Ah, giusto. Ho letto male, scusate. Che c'era una H e mezzo. Certo, c'è l'Avengers inglese. John Greenwood, Spencer, Frozen 3. E questo è 100 celle Avengers. Scego un finale. Babaraio ba, babaraio ba, babaraio ba. Grandi, siamo come quelli veri. E si canta sotto la doccia, praticamente qui a Radio Forte 100 celle Avengers. E niente, facciamo gli stacchetti che non abbiamo, le sigle che non abbiamo, però i sottofondi che non abbiamo. Ma non è un caso, appunto, che la giornalista Gabby Grubbi sia prendo in mano, in voce, prende in mano la situazione, ma il timone, con calma, momentaneamente, con calma, solo per presentare la prossima rubrica che è quella che ci arriva da lontano, che ricorderete, e trattasi di Artifici. Il pacco da giù. Il pacco da giù che arriva esattamente e siamo, ci porterà, sì, è lontano, adesso sentite, e ce la manda Angelo, che salutiamo, che ci sta ascoltando. Angelo. E che è sempre, ciao Angelo. Sempre Pacima, mio padre, Pacima, insieme al pacco. Pagina. Andiamo con la sigla? Direi sigla. Di sì. Grazie Angelo, grazie Angelo, non conoscendo affatto la storia dell'arte. Grazie Angelo, grazie Angelo, sempre gradevole, sempre importante. Grazie Angelo, grazie Angelo, ma ancora vorresti narrare la storia dell'arte. Amiche e amici di Radio Forte e di 100 Celle Avengers, 100 Celle più una, buon pomeriggio. Rinnovo i miei ringraziamenti al maestro per il dono bellissimo fatto in occasione del mio 70° compleanno, e vado avanti se no poi perdo troppo tempo. Oggi parliamo dell'arte preistorica, infatti state ascoltando le note di un brano che risale al 1970, Neanderthal Man, composto da un gruppo, si chiamavano gli Hotlegs, poi fu inciso anche da James Last e la sua orchestra e da Elton John. Neanderthal Man ci riporta appunto alla preistoria, anche se l'uomo di Neanderthal ha poco a che fare con l'attività artistica, questo è più da riferire all'Homo sapiens, che ha soppiantato il Neanderthal e tutte le altre specie. Il Neanderthal è scomparso poi intorno a 45.000 anni fa. Per l'arte preistorica ovviamente non abbiamo documenti scritti, abbiamo però dei documenti visivi e li ritroviamo nelle grotte che erano abitate da questi nostri progenitori. Sulle pareti di molte grotte, disseminate un po' su tutta la Terra, troviamo delle rappresentazioni di varie specie di animali, bisonti, cavalli, cervi, giraffe, e sono sia rappresentati questi animali in scene di caccia sia in cortei. Insieme a loro a volte ci sono anche figure umane, i cacciatori, le cui figure sono rappresentate in maniera decisamente meno accurata, quasi stilizzate, quasi in maniera astratta, mentre per gli animali l'artista ha cercato di dare una rappresentazione il più realistica possibile, gli uomini sono appena accennati. Questo già ci dice che si dipingeva dando più importanza agli animali che ai cacciatori. Gli artisti hanno usato quasi sempre colori molto vivi e soprattutto in Altamira, ma all'Escò, ma anche altrove, c'è stata, si vede, c'era la capacità di dare un cenno di prospettiva alle figure e dare anche movimento, rappresentare anche il movimento degli animali in corsa. Teniamo conto che questa capacità espressiva è andata evolvendosi in Grecia fino a Roma. Dopodiché dal secondo, terzo secolo, con l'avvento dei regni romano-barbarici, soprattutto con l'avvento del cristianesimo, la pittura soprattutto si è appiattita, perché non doveva esserci nessun accenno alla natura, al movimento, al corpo, tutto doveva essere ieratico, sacrale, fisso, perché doveva dare l'idea della maestosità di ciò che si dipingeva, figure sacre, eccetera. Questo ovviamente ne parleremo in qualche altra occasione. I preistorici davano, quindi riuscivano a dare l'idea del movimento e a creare prospettive nelle loro rappresentazioni. Una costante di tutte queste manifestazioni artistiche è che non venivano mai rappresentate all'ingresso delle grotte, cioè lì dove c'era un po' più luce, dove potevano essere viste, guardate e ammirate, perché quel tipo di arte non aveva una funzione estetica, ma aveva una funzione pratica. Questo pone l'arte preistorica un po' ai margini, come è giusto che sia, della vicenda artistica. Noi sappiamo che l'arte non deve avere una utilità, se ha una, se l'oggetto dipinto, se scolpito o altro è utile a un qualche cosa, allora diventa un oggetto di artigianato. La differenza questa è: l'artista, l'artigiano deve fare qualcosa di utile, funzionale allo scopo al quale è destinato, l'artista no, deve crea qualche cosa di non utile. L'arte preistorica invece è funzionale, a che cosa? Ha una sua utilità. E l'utilità è magico propiziatoria, lo scopo è questo. Magico propiziatoria, faccio un esempio così ci capiamo subito. Ognuno di noi in adolescenza, qualcuno anche oltre l'adolescenza, ritaglia la foto del suo mito, che sia un calciatore, un cantante, un musicista o chiunque sia, se l'attacca nella stanza, nell'armadio, e crea una relazione tra se stesso e il soggetto rappresentato. Ecco, era la stessa cosa, la funzione era questa. Così come chi ha la fotografia del suo idolo instaura una relazione, e quindi in un certo senso possiede quell'idolo, per i nostri progenitori rappresentare gli animali con la freccia già conviccata nel loro corpo propiziava la caccia, ma creava già una relazione di possesso tra l'artista, quindi il clan, e l'animale stesso. Un altro esempio su come instaurare questo tipo di rapporto, di relazione, lo abbiamo se pensiamo sempre agli adolescenti, l'adolescenza che si protrae anche oltre l'età classica, consiste nello scrivere ripetutamente il nome della persona amata. No? Silvana, Silvana, Silvana, Angelo, Angelo, Angelo. Scriverlo sul diario, scriverlo dovunque, e questo dava il senso del possedere già la persona alla quale il nome corrispondeva. La stessa funzione magico-propiziatoria avevano gli oggetti scolpiti. I primi, quelli ritrovati, sono rappresentativi di donne, sono le cosiddette Veneri preistoriche. La più famosa è la Venere di Willendorf a Vienna, una statuina alta quanto un pacchetto di sigarette. Rappresenta una donna con in capo un'acconciatura, probabilmente erano conchiglie, i tratti del viso scompaiono, non serviva a rappresentare il volto, ciò che serviva a rappresentare erano i caratteri della fertilità e della maternità, quindi seni molto prosperosi, glutei molto larghi, corpo bello grassottello che assicurava quindi la capacità di poter portare a compimento molte gravidanze, e venivano scolpite proprio per anche quelle propiziarsi la gravidanza, perché all'epoca non si capiva ancora il meccanismo della gravidanza, di questo però parleremo un'altra volta. E anche le statue quindi avevano una loro utilità. Tornando un attimo alle grotte, va osservato che in alcune di esse, anche queste sparse in tutta la terra, insieme ad animali troviamo sulle pareti l'impronta di mani. La più famosa di questo genere è la Cueva de Las Manos in Patagonia, in Argentina, ma ce ne sono in Sardegna, in Sicilia, in Francia, Spagna, in Indonesia, dovunque. E questo prova come l'evoluzione del Sapiens sia stata costante, contestuale, in più luoghi della Terra, anche senza collegamenti tra i vari gruppi. E lasciare l'impronta della mano, secondo alcuni, costituiva una sorta di rito di passaggio, perché si tratta di mani, ne hanno analizzato la conformazione e le proporzioni, sono mani di adolescenti, di ragazzini, prevalentemente mani sinistre, e quindi segnava il rito di passaggio dall'età infantile all'età adulta. L'impronta veniva ricavata appunto appoggiando la mano sinistra sul fondo della parete, sulla parete, e poi o con una cerbottana, con la bocca o con qualche altra cosa si soffiava o si sputava l'impasto colorato. Levata la mano restava l'impronta in negativo. Un altro accorgimento che usavano spesso gli artisti del Paleolitico era sfruttare le conformazioni della roccia. Quando c'erano ingrossamenti, rigonfiamenti, facevano in modo che lì venisse dipinto per esempio un bisonte, e l'ingrossamento della roccia veniva usato per rappresentare il coscione, il gluteo, la natica. Questa tecnica è stata usata anche nella grotta del Romito a Papasidero, dove ben nota il nostro maestro, dove c'è inciso in maniera mirabilissima un Bos Primigenius. Chiudo con l'invito, ecco, ad andare a visitare qualsiasi altra grotta, ma questa fra le più interessanti è in Calabria, e il nostro maestro sicuramente ci troverà. Grazie, alla prossima. Stai ascoltando Radio Forte. Scusa, siete il tecnico. Qua non funziona, non so che mixer mai dato, il canale left, no, non si sente. Non lo so, funzionava perfettamente il mixer. Ai. Radio Forte 100 Celle Avengers, su queste note latine che usiamo per salutare il nostro ascoltatore number one Jorge El Mentiroso. Io approfitto, anche perché non avevamo la sigla purtroppo relativa alla rubrica dei solisti, ma vorrei farvi sentire ancora qualcosa dal nostro incredibile saggio appena trascorso, andando appunto a esplorare il mondo inesplorato oggi, perché dei solisti. Sto sbagliando tutto, ok, grazie Jorge, diamo un'atmosfera un po' più intima, altrimenti mi sconfondo col volume inaudito. E niente, cioè fra un'oretta riusciremo ad ascoltare Fana, che è una new entry della scuola di musica forte e che si è esibita al saggio appunto a ottobre. Come cantante? Il pezzo io lo pronuncio male, quindi lo pronuncia Virgi. Il pezzo è Papa Ute ed è stato il primo pezzo fatto questo saggio, quindi ha rotto il ghiaccio. È sempre proprio un record da registrare, questo, certo, è il primo pezzo andato in onda anche su Radio Forte, tra l'altro, mi sembra, in diretta streaming al saggio di Musica Forte. Papa, dis-moi où es-tu caché, ça doit faire te papa ute, ute papa ute, ute ute papa ute, ute papa ute, ute papa ute, ute papa ute, ute ute papa ute. On sera tous papa et d'un jour à l'autre on aura disparu. Serons-nous détestables? Serons-nous admirables? Des géniteurs ou des génies? Dites-nous qui d'en est sans os irresponsables. Ah, dites-nous qui? Tiens, tout le monde sait comment on fait des bébés, mais personne sait comment on fait des papas. Monsieur Chéteau, on aurait hérité, c'est ça? Faut le sucer de son pouce ou quoi? Dites-nous, c'est caché, ça doit faire au moins 1000 fois que j'ai. Papa Ute, Ute papa Ute, Ute papa Ute, Ute Ute papa Ute, Ute papa Ute, Ute papa Ute, Ute papa Ute, Ute Ute papa Ute, Ute. Où est ton papa? Dis-moi où est ton papa, sans même devoir lui parler, c'est ce qui ne va pas. Ah sacré papa, dis-moi où es-tu caché, ça doit faire au moins 1000 fois que j'ai compté mes doigts. Où est ton papa, dis-moi où est ton papa, sans même devoir lui parler, c'est ce qui ne va pas. Ah sacré papa, dis-moi où es-tu caché, ça doit faire au moins 1000 fois que j'ai compté mes doigts. Hey, où t'es papa, où t'es, où t'es papa, où t'es, où t'es papa, où t'es, où t'es, où t'es papa, où t'es, où t'es papa, où t'es, où t'es papa, où t'es, où t'es papa, où t'es, où t'es, où t'es papa, où t'es. Sono Luciano Ligabue e mando un saluto agli ascoltatori di Radio Forte 100 celle Avengers. Mamma mia, incredibile, ritorniamo in diretta su Radio Forte 100 celle Avengers. Ringraziamo, salutiamo. Luciano, lo salutiamo, ci segue sempre. Alle 18.33 abbiamo ascoltato Fana, della categoria dei solisti, che però quest'anno fa anche musica insieme, bisogna dire. Si è ravveduta. Non è, fa parte di due gruppi, quindi fa doppio saggio. Come, niente, quella riforma che vi dicevo. E, smettetela di bullizzare i solisti. Hai ragione, Betta, maledetti. E, comunque, che cosa andava a succedere adesso di fretta e di furia? Che abbiamo un momento, cioè, me lo dici così, sotto, no scusa, scusa, sono io che devo affrettarmi a togliermi, diciamo, e a trovare quella che è la sigla che c'è, se vuoi, c'è a un tuo comando. Allora adesso ci sarà la rubrica Music and Poetry e andiamo con la sigla. Lasciatemi leggere, sentire questa poesia. E non so leggere, ho voglia di sentire questa poesia. Buonasera, ci siamo? Sì, vado. Buonasera. Pronti a tutti. Come mai, allora, proprio. Stasera, buonasera maestra Viola. Buonasera. Allora, stasera parleremo di, voglio trattare un tema molto, diciamo, per buon augurio di questa nuova stagione dei 100 celle Avengers, e parleremo di unicità. E a tal proposito, ecco, parlerò di questa poetessa e saggista polacca, premio Nobel per la letteratura del 1996. Ma siccome io non mi ricordo, cioè non la so pronunciare bene, io mi sono attrezzata, un momento, Wisława Szymborska. Ecco. Grande. Grazie, grazie. È lei, è proprio lei. Grazie, Alexa. Di Suava Scimbosca. Mi dimenticherò, ovviamente. Vabbè. Quindi dicevamo unicità. E come affermava Jung, diceva che ciascun essere umano è una forma di vita in se stessa unica e ripetibile. E l'uomo nasce con la sua individualità, ma c'è qualcosa che gli può fare al di là e al di sopra del materiale precostituito della sua natura, e cioè può diventare cosciente di ciò che lo fa essere la persona che è, e può coscientemente adoperarsi per connettere quindi ciò che egli è con il mondo. Con il mondo che lo circonda. Diciamo, questa poetessa esprime pienamente questo concetto e amava infatti lei fotografare la quotidianità dell'esistenza attraverso le proprie poesie. Ogni cosa per lei era materiale per la sua poesia. E affermava: non è il genere umano che bisogna amare, bensì gli uomini, ogni individuo separatamente, diceva. E la sua poesia, appunto, che tratta questo tema, si intitola Nella moltitudine. Sono quella che sono, un caso inconcepibile, come ogni caso. In fondo avrei potuto avere altri antenati e così avrei preso il volo da un altro nido, così da sotto un altro tronco, sarei strisciata fuori in squame. Nel guardaroba della natura c'è un mucchio di costumi, di ragno, di gabbiano, topo di campagna. Ognuno calza subito a pennello e docilmente indossato finché non si consuma. Anch'io non ho scelto, ma non mi lamento. Potevo essere qualcuno molto meno a parte. Qualcuno d'un formicaio, banco, sciame, ronzante. Una scheggia di paesaggio sbattuta dal vento. Qualcuno molto meno fortunato, allevato per farne una pelliccia, per il pranzo della festa. Qualcosa che nuota sotto un vetrino. Un albero conficcato nella terra, a cui si avvicina un incendio. Un filo d'erba calpestato dal corso di incomprensibili eventi. Uno nato sotto una cattiva stella, buona per gli altri. E se nella gente destassi spavento, o solo avversione o solo pietà, se al mondo fossi venuta nella tribù sbagliata e avessi tutte le strade precluse, la sorte finora mi è stata benigna. Poteva non essermi dato il ricordo dei momenti lieti, poteva essermi tolta l'inclinazione a confrontare, potevo essere me stessa, ma senza stupore. E ciò vorrebbe dire qualcuno di totalmente diverso. Ma come fa? Vi è piaciuta, amici? Io ho cercato di rovinartela in qualche modo, ma non ci sono riuscito. Brava, professoressa Viola. Grazie, grazie. Un altro pezzo di cultura che si innesta nelle nostre gemme dell'infinito, del guanto di Iron Man, di coso. È un piacere. Brava, potevi fare rumore, però va bene, ok, l'hai fatto con la bocca, ma oggi è tutto così analog human. E analog human, è il pezzo, non è vero, si chiama Faced. Si chiama Mashaboom. Si chiama, lo sapevo. Di Face. Potevo avevo il 50%, autore o pezzo, e ho sbagliato. Quindi? Quindi è Mashaboom di Face. Ma chi è Face? Helping the kids out of their coats, the way the babies haven't been born. Oh, oh, oh. Unpacking the bags and setting up and planted lilacs and buttercups. Oh, oh, oh, but in the meantime I got it hard, second floor living without a yard. It may be years until the day my dreams will match up with my pay. Light, tucked in the woods and out. tip my cap on a little rug barely on my Radio Forte e queste 100 Celebrated. Niente, questa è la analog dedicato a voi. E che cosa voleva preludere questa cosa? Il sottofondo adeguato che non c'è mai, ma colpa mia, non dire così, non fare così, non capisco. Tutto questo ovviamente mi ha fatto scordare tutto, ma invece no, me lo sono ricordato. C'è Virginia, ma non c'è la sua sigla, quindi... Allora, quindi la rubrica sarebbe all'epoca, ma visto che un pochino parlo anche di coreografie... grazie, ora mi sento meglio. Anche io. Ero stata bassa tutta la puntata. Vabbè, no. Dai. E, visto che la rubrica sarebbe all'epoca, ma parlo anche un po' di coreografie, e non abbiamo la sigla di all'epoca qui, perché oggi veramente si fa un po' come ci pare. Allora manderemo la sigla di Video Dance on comunque the Radio, rappresentativa di Virgi. Certo. Batmo de Gage. Bravo. Ma Virgi, che hai? Ti vedo giù. Ma come? Io avevo pronte le coreografie, i costumi, trucco, parrucco. E chi le vede mo ste cose? Senti, io... Cos'è? Il musical? Senza la danza. Capito? Ok, Virgi. Comunque è efficace. È efficace, efficace, funziona. Bellissimo. Funziona. Ma sì. Tensione. E finiamo qui. Abbiamo finito la puntata. Grazie a tutti. No, non era. Ok. Allora, innanzitutto vi volevo chiedere scusa perché sarò sicuramente molto molto moscia. Sono in un momento in cui... Esatto, c'ho un mood un attimo strano. Ma in questa nuovissima rubrica, che alla fine aveva fatto poche puntate, volevo parlare di un argomento, cioè all'epoca, volevo parlare di un argomento che non solo parla dell'epoca che mi piace di più, ovvero degli anni 60, ma fa un doppio carpiato e arriva a parlare anche di un'altra epoca in cui mi rispecchio particolarmente, anche perché questa l'ho vista effettivamente, cioè la fine degli anni 90, inizio 2000. E stiamo per parlare di una trasmissione che appunto a maggio del 2000 uscì grazie al contributo di Greg Lillo e di, scusatemi, Giambattista Avellino, ovvero l'autore di questa trasmissione, che hanno sapientemente costruito un revival degli anni 60 con la trasmissione Telenauta 69. Io potrei anche mandare un esempio di sigla. Colada la TV. Credo bene, ci sono era bellissima, era rifatta perfettamente con lo stile degli anni 60, veramente grandiosi. E diciamo che Lillo e Greg si rifacevano molto alle trasmissioni, quelle ospitate, diciamo, ad esempio da Amina. Infatti una delle presentatrici ricorda nel trucco, nell'abbigliamento e anche nei modi molto il modo di presentare le trasmissioni appunto di quel periodo. Mentre parlando invece della parte che riguarda gli anni 90-2000, diciamo più 2000 insomma, mi setterò su questo, come se la cavarono per arrivare a quel periodo? Se la cavarono con l'invenzione del Futurello, una sorta di telecomando che riusciva in quegli anni a prendere le trasmissioni del futuro. E riuscirono ovviamente a prendere in giro perfettamente moltissime trasmissioni di quel periodo, ad esempio delle Iene con una Simona Ventura, oppure ecco i Fatti Vostri con Magalli, non c'era ancora Giletti o c'era, non mi ricordo più, insomma c'erano tutti, come no? C'era anche il, come si chiama, il direttore d'orchestra Mazza. Il maestro Mazza, certo. Nominiamolo. Ma volevo mandare un contributo Mazza sulla visione che avrebbero avuto le persone degli anni 60 su una trasmissione iconica invece degli anni 90, ovvero Non è la Rai. Mamma mia. Facciamo un esempio. Dalle vetrine ogni carezza della... Ecco. Avete visto che il Futurello ancora non funziona perfettamente, è un prototipo, quindi questa volta ci ha portati proprio durante le prove di una trasmissione. Sono gli inconvenienti del futuro, quindi scusateci. No, è questa la trasmissione. Ho capito. Si vede che il Futurello ci ha portati in un momento della trasmissione in cui non c'era il conduttore, quindi le bambine che erano presenti hanno portato un po' di confusione, di cagnara. È tutta così la trasmissione. Vabbè, però così non lo vede nessuno un programma. Un successo ineguagliato per 3 anni. Ah, d'accordo. E niente, insomma, da qui già si può capire un pochino quale compostezza viene messa in atto dai due conduttori di questa trasmissione, proprio per riportarci agli anni 60. Ma non c'era soltanto quello di ricordo e di, diciamo, dettaglio curato benissimo. Un altro dettaglio curato benissimo è che all'inizio della trasmissione c'è sempre l'annuncio del palinsesto TV della signorina Buonasera, che in questo caso si chiama Giulia Boschi ed è la figlia di una vera annunciatrice dell'epoca, ovvero Abba Cercato. Ah no, Maria Elena. No, Boschi. No. Abba Cercato, che io non conoscevo, vabbè, ma purtroppo sono dell'epoca soltanto per finta. Sì. Altro dettaglio fondamentale che ci riporta direttamente agli anni 60 è la sigla di Video Dance on the Radio, è stata già mandata, quindi possiamo appunto settarci su quello. Le coreografie sono in perfetto stile degli anni e sono eseguite da un team di ballerini eccezionale. Sono veramente, secondo me, ovviamente che mi interesso di danza, insomma, sono una cosa per cui vale la pena vedersi la trasmissione, che comunque è in 5 comode puntate, quindi insomma si può vedere tutto ad un fiato. La band di supporto della trasmissione erano i Blues Willis, ovvero il gruppo musicale che è realmente esistente ed è capitanato da Greg stesso, che ha già nella norma dei rimandi molto vintage agli anni 50-60. In questa trasmissione appunto ci sta perfettamente. Hanno suonato pure al forte. Hanno suonato pure al forte, ma che bello, sì. Vedi? Allora è tutto collegato. Un'altra una cosa che volevo farvi sentire era appunto la necessità, la differenza tra il trash degli anni 2000 e invece appunto questa grande classe che c'era negli anni 60, e questo si risente molto negli sketch che venivano utilizzati e venivano creati dai due. Uno di questi, secondo me, vabbè, questo è il mio preferito in assoluto ed è appunto veramente Non ci vuole molta cagnara per far ridere, maestro. Adieu. Adieu. Adieu. A Diego, andiamo un po' che stiamo a perdere il treno. Io giuro ogni volta, cioè io dico addio alle persone pensando che a questo, genio. Cioè io saluto le persone in questo modo, sappiatelo, perché per me sto per dire a Diego. Comunque Grandissime citazioni all'interno di questa trasmissione. Una fra tutte la devo citare, e anche se non abbiamo mandato la sigla, ci sta un perfetto esempio di Paolo Limiti rivisitato, che per me è stato sempre l'ultimo detentore dei segreti della dolce vita di quel periodo là. E quindi un altro esempio da contributo da mandare. Prego, maestro. Belinda, che ha avuto un grandissimo successo con questa canzone, pensate, nel 1969. Poi è stata completamente dimenticata dal pubblico, ma noi l'abbiamo riesumata per voi. Brava, brava, brava. Perché ricordiamolo, prima di Telenauta 69 e anche dopo, oltretutto, ci abbiamo sempre avuto soltanto Paolo Limiti che ci ricordava e ci riportava all'epoca. Quindi, diciamo, in conclusione, per come io vedo questa rubrica, si fanno delle recensioni di roba che io non ho mai vissuto. Invece questa volta vi volevo portare un esempio di roba che io ho vissuto in prima persona e che mi ha resa molto felice, anche se avevo soltanto 14 anni, proprio perché comunque io di quel periodo, ovvero dell'epoca degli anni 60, ero già molto appassionata. Quindi vi saluterei con un brano sempre di Greg e Lillo, ovvero diciamo del loro gruppo storico, Latte e Suoi Derivati, che diciamo ci fa capire anche la grande cura dei dettagli, soprattutto in questo, da questo punto di vista musicale. E con una canzone che è Bada a quello stopper, che poi diventò sigla del programma TV Gala Gol. Mamma mia. Nel periodo in cui Totti fece la prima convocazione in nazionale e addosso c'aveva il numero 20, perché il 10 spettava a Giannini. Prego, che maestro. Pescone, mamma mia. Mamma mia. Hai tirato fuori. Qui è Greg dallo stadio Santa Cecilia. L'arbitro ha appena dato il fischio d'inizio della canzone. I musicisti già si scaldano le dita, ma è subito il bassista che prende mano l'azione e porta avanti il disegno ritmico del pezzo. Già si accendono gli animi sugli spalti mentre si entra nel vivo del brano con un'azione corale di chitarra e batteria. Scusa l'interruzione, qui è Lillo, ma interviene in questo istante il pianista in scivolata che favorisce lo schema tattico e l'azione ripassa al bassista che vede un'apertura. Entra sulla metà palco quando sono passati appena 40 secondi dall'inizio. Scusa di nuovo, ma c'è un'ammonizione per la chitarra e un fuorigioco del primo cartellino giallo della canzone quando la solo passa al sax. Qui ancora Greg, bellissima solo del sax che sancisce una netta supremazia dei fiati nella canzone. Sentiamo un commento a caldo del musicista. Sono contento dell'assolo, ce l'ho messa tutta e ringrazio i miei compagni che mi hanno sostenuto. Ma sì, abbondiamo. Scusami ancora, qui è Lillo, c'è una mischia di percussioni sul palco, batti e ribatti degli strumenti, ma ancora gioco a scorretto del chitarrista. Ed è espulsione, il fonico estrae il cartellino rosso. Rimessa in gioco del trombone. Passaggio la tromba. Peccato, l'assolo era partito splendidamente con il trombone ma si è perso sulla tromba. Sentiamo il commento della tromba. Ma sarà la moviola a dirci com'è andata. Stelle per una canzone suonata a grandi livelli. Mancano pochi secondi alla fine del brano del pianista che conduce in questo momento. E passa al sax. Ancora il sax. La tromba. Passa al trombone. Di nuovo il pianista gambatese. Bada quello stopper. E Radio Forte, Centocelle Avengers, 18:55, va in onda anche oggi la rubrica che tutti stavano aspettando, purtroppo fanalino di coda, ma non meno importante, Cini di Balaca, sigla! Poi dici cos'è Cini di Balaca magari. papà. Ma papà! Papà, guarda! Ma papà! Ma papà! Ma non lo senti? Che è uguale ai cigni dei Baragà! Ed eccoci rientrati i cigni di Balacà. Allora chiude praticamente l'ultima rubrica della, di questa puntatona di 100 Gioielli Avengers. Allora vado veloce come un treno e dalle note che state ascoltando, perché come sapete appunto il cigno di Balacà si occupa proprio di scovare i plagi, quelli proprio più mostruosi. In questo caso però parliamo di un plagio concettuale, perché avete già riconosciuto il brano. Ovviamente parliamo della Fiera dell'Est di Brando Hardy, che ricordiamolo insomma, che alla Fiera dell'Est è il terzo album di Brando Hardy, contenente appunto la canzone omonima, pubblicato nel 76. E perché ne parliamo, perché la citiamo? La citiamo perché, come ebbe a dire poi lo stesso Brando Hardy, la Fiera dell'Est è poi questa una commistione di un tema di stile rinascimentale, è particolare perché ha questa melodia di intervallo unico che si pensa è la prima forma di musica che si pensa sia stata creata addirittura. E di che parla? Insomma, brevemente ve lo dico pure perché è una cosa un po' curiosa. È un adattamento di un canto pasquale ebraico dal titolo Chad Gadia, che significa un capretto. E si tratta proprio di una filastrocca recitata dai bambini alla fine della cena della Pasqua ebraica. E il testo, come molte filastrocche, nasconde in realtà molti significati in queste 10 strofe che si ripetono. E con la particolarità che al posto del topino che tutti conosciamo c'è appunto un capretto che simboleggia la storia proprio del popolo ebraico. E Brando Hardy quindi ha ripreso questo brano. Che poi a me, insomma, c'è anche questa curiosità che si è notata una somiglianza con questo brano con la filastrocca inglese The House That Jackie Built, che forse qualcuno conosce, in realtà è una filastrocca per bambini. Chi non conosce? Ce l'abbiamo pure, non so se abbiamo anche il tempo di metterla quando mancano solo 3 minuti alla chiusura. This is the house that Jack built. Esattamente, sì. Solo perché ci piace scovare i plagi e dunque questa assonanza non me la potevo veramente perdere. Alla Fiera dell'Est. No, più che altro da un punto di vista testuale, perché parla di questo topino che entra in casa, compra il malto, e il gatto mangia il topo che ha comprato il malto, eccetera, eccetera. Sei tu la coda. Esattamente. E c'è stata anche fatta una versione Italo Dance, ma questa, diciamo, ve la risparmio. Ma soprattutto c'è qualcun altro, quindi torniamo al plagio concettuale di cui parlavo prima, che si è appunto distinto per un brano altrettanto celebre e un po', diciamo, un altro artista molto più autoctono, diciamo così, anche se poi, insomma, assolutamente famoso in tutta Italia, e che riprende proprio questo stile, questo espediente della filastrocca di questo circo, di questa narrazione ad anello. E parlo di Roy Paci e Are Tusca, e sono una band siciliana che si è formata a Siracusa nel 98 esatto, sentiamo quindi il pezzo che... Prego, non ti distrarre. No, sentiamola, sì. Sicura? C'era prima un'altra parte, ma insomma sì, questo è il pezzo che Roy Paci in qualche... Scusa. Perché? Ho sentito Roy Paci, è andato in play in automatico. No, hai fatto bene, ti ho guardato male. No. Anche perché manca un minuto, quindi diciamo che devo saltare a pie pari, diciamo così, tutta questa parte e direi che ci possiamo godere il pezzo e magari anche iniziare a fare qualche saluto durante il pezzo, perché in fondo l'analogia che volevo sottolineare era proprio quella che abbiamo già sottolineato appunto, di un pulicino che va al mercato e che ripetutamente segue la stessa narrazione ad anello, fantastico, a circolo. Incredibile. Ma si chiama appunto numero delle quinte. No, allora, mentre dobbiamo trovare un nome. C'era tutta una parte zona, in siciliano che non. Ecco, non dirò. Questa zona della trasmissione che tocca a qualcuno come il Cerino, dobbiamo trovargli un nome. Eppure dobbiamo evitarla. La zona Gabri, la zona. Non lo so. Comunque, quando sono proprio le 19 in punto, io vi do appuntamento. Chissà se fra 2 settimane, chissà se ancora di sabato. È tutta una roba che si sta cercando di capire. Tuttavia, è stato bello rivedervi dopo tanto tempo. Usciti dal Bellissimo. Blip, torneremo ancora più vivaci e sigla. Ciao. Ciao.